Dialogo 18. Raccontò Anas. L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: aiutate vostro fratello, sia l'oppresso che l'oppressore. Uno dei presenti gli chiese: non mi è difficile capire di aiutare l'oppresso, ma come posso, o apostolo di Allah, aiutare un oppressore? Il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, rispose: impedendogli di opprimere, questo è il modo di aiutare un oppressore.